A volte basta una chicca per far cambiare una strada impervia e tortuosa che sembra già segnata. A volte è una carezza che penetra la guancia. A volte basta sentirti per scoprire nuove lune. A volte basta vederti anche se non parli amore. A volte ci vuole tatto, altre volte ci vuole tutto. A volte me li mangio tutti i tuoi sorrisi, altre volte melagrane, limoni rossi e mandarini sul tavolo della cucina a fare quello che non si dovrebbe nel pianerottolo della cantina in mezzo al prato sotto le stelle. A volte siamo nel sole, altre volte è meglio non mentire. A volte ci sentiamo luna, altre volte è meglio non vedere. A volte siamo scoiattoli, altre volte volpi e lupi. A volte ci sentiamo bambini, fiduciosi nel domani. A volte siamo avviliti per tante storie che ci rendono opachi. A volte siamo una frittata, il condimento di un'insalata. A volte me li mangio tutti i tuoi sorrisi, altre volte melagrane, limoni rossi e mandarini sul tavolo della cucina a fare quello che non si dovrebbe nel pianerottolo della cantina in mezzo al prato sotto le stelle. A volte me li mangio tutti i tuoi sorrisi, altre volte melagrani, limoni rossi e mandarini sul tavolo della cucina a fare quello che non si dovrebbe nel pianerottolo della cantina in mezzo al prato sotto le stelle.